Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Benvenuti ad Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa Regionale. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. In questa puntata parleremo dei principali provvedimenti assunti dall'Aula nelle ultime sedute di Consiglio, in tema di logistica, cultura e diritti, sanità. L'Assemblea Legislativa ha approvato a maggioranza la proposta per istituire in Emilia-Romagna una zona logistica semplificata, che metterà in relazione infrastrutture viarie e ferroviarie e aree produttive e commerciali, con l'unico porto regionale, il porto di Ravenna. L'obiettivo tracciato dal piano strategico è quello di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e logistico territoriale e attrarre nuove realtà produttive e nuovi investimenti. Ecco il commento di Gianni Bessi del Partito Democratico. C'è stato grande e positivo accoglimento da parte di tutti gli stakeholders, sia dei territori, sia delle associazioni di imprese, degli imprenditori e non solo. Credo che fare sistema, portare il sistema logistico sostenibile terra, acqua e gomma sia coerente con gli obiettivi della nostra regione. La logistica semplificata dell'Emilia-Romagna si estenderà su una superficie di quasi 5.000 ettari ed è costituita da aree territorialmente non contigue, localizzate in 28 comuni delle 9 province del territorio emiliano-romagnolo. Unirà il porto di Ravenna con gli 11 nodi intermodali regionali e 25 aree produttive commerciali. Per le imprese già ricomprese nella zona logistica semplificata o anche di nuovo insediamento, sono previste semplificazioni amministrative, incentivi economici e sgravi fiscali, con ricadute positive per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e occupazionale. E per Silvia Zamboni di Europa Verde? Con la zona logistica semplificata si danno invece delle opportunità fiscali, delle opportunità di collegamento al porto di Ravenna, alla logistica che già esiste. Quindi non c'è nuovo consumo di suolo. L'Assemblea ha anche approvato un ordine del giorno affinché il Governo apra la possibilità anche di una zona logistica semplificata interregionale che porti vantaggio alle realtà produttive della zona nord-occidentale dell'Emilia-Romagna, da sempre in relazione con i porti liguri. Sentiamo a riguardo Fabio Rainieri della Lega. In questo caso consentirebbe alla regione di avere sostanzialmente due sbocchi nei due mari della nostra penisola. La renderebbe la nostra regione ancora più appetibile dalle attività produttive in questo senso. E adesso parliamo di tutele e diritti. L'Assemblea Legislativa ha eletto due nuovi garanti regionali. Si tratta di Claudia Giudici e Roberto Cavalieri. Psicologa, pedagogista e già presidente dal 2016 di Reggio Children, Claudia Giudici subentra a Clede Maria Garavini nel ruolo di garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza. Roberto Cavalieri è il nuovo garante regionale delle persone sottoposte a misure limitative o restrittive della libertà personale. Succede a Marcello Marighelli. Dal 2014 Cavalieri è stato garante comunale per i diritti dei detenuti a Parma. Entrambi i garanti dureranno in carica 5 anni e, come i loro predecessori, non sono rieleggibili. Ecco il commento di Federico Amico, presidente della Commissione Parità e Diritti dell'Assemblea Legislativa. Riusciamo come Assemblea a dare continuità al lavoro di garanzia importantissimo che svolgiamo nelle persone poi molto qualificate, da un lato di Claudia Giudici e di Roberto Cavalieri, che già per i due temi si sono distinti sul territorio regionale, sia dal fronte pedagogico per quanto riguarda il garante dell'infanzia, sia dal punto di vista della tutela dei diritti dei detenuti per quanto riguarda Roberto Cavalieri. L'apertura dei lavori d'aula, come di consueto, è stata dedicata ai question time. Tra gli argomenti trattati, quello della sanità. Michele Barcaiuolo di Fratelli d'Italia ha sollevato il problema della carenza del personale nei pronto soccorso, in particolare in quello di Modena. Credo che le politiche fatte anni fa sono state sbagliate, dalla chiusura totale del numero chiuso medicina e dell'incapacità di rendere attrattive alcune specializzazioni. Oggi ci troviamo in una situazione di emergenza, non per il Covid in queste strutture, ma per la mancanza di visione che c'è stata tempo fa. Stefania Bondavalli della lista Bonaccini ha invece chiesto quale sia la situazione delle medicine sportive pubbliche del territorio e aggiornamenti sul ripristino dei tempi ordinari di svolgimento dei relativi servizi. Da parte dell'assessore Donini è arrivata una risposta positiva, un impegno concreto, la spiegazione anche che il personale è chiaramente impegnato in questa emergenza pandemica e soprattutto anche nella campagna di vaccinazione, ma ha assicurato che al più presto si proverà appunto a reperire nuovo personale per poter far fronte a questa criticità. Una risposta che sicuramente ci ha soddisfatto e che pone al centro un tema importante che è quello dello sport per i nostri ragazzi e le nostre ragazze. E a proposito di uscita dall'emergenza Covid, Valentina Castaldini ha chiesto notizie sugli impegni e progetti avviati dalla Regione con la prima tranche di fondi del PNRR. La Regione dovrà comunicare come utilizzerà questi soldi e qual è il piano strategico su fondi sanitari e in particolare sulla formazione. Non abbiamo ancora niente fra le mani e come opposizione sono profondamente preoccupata perché non possiamo permetterci di rimandare indietro neanche un euro. Cambiamo argomento e parliamo di cultura. Da Ludovico Ariosto a Cesare Zavattini è lungo l'elenco delle persone illustri dell'Emilia-Romagna. Le loro dimore, gli studi, i luoghi dove hanno vissuto e operato costituiscono un patrimonio diffuso da valorizzare e conservare. Grazie alla nuova legge regionale approvata a larga maggioranza dall'Assemblea legislativa, questi luoghi dove si conserva la presenza del genio che li ha abitati possono ora contare sul riconoscimento della Regione e diverse forme di sostegno. Soddisfazione da Andrea Costa del Partito Democratico. Un provvedimento di legge piuttosto importante che dice sostanzialmente ai figli, agli eredi, ai comuni, piuttosto che alle associazioni e alle fondazioni che se ne sono occupate fino adesso, la Regione sarà al vostro fianco. Come? Finanziando interventi di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria, oppure interventi per la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale che in quelle case è custodito. Ad oggi sono circa 90 le realtà censite tra case museo, studi e archivi di artisti, cineasti, collezionisti, letterati, musicisti, personaggi storici, scienziati e inventori, vissuti prevalentemente negli ultimi due secoli. Sentiamo la sottolineatura di Valentina Stragliati della Lega. Siamo favorevoli all'iniziativa, ma senza un adeguato sostegno economico, senza un'adeguata presa di posizione da parte della Giunta, ci siamo astenuti. Tra gli interventi previsti dalla nuova legge ci sono quelli per la salvaguardia, la catalogazione e lo studio del patrimonio, la conservazione e il restauro, la fruizione pubblica e anche lo sviluppo di progetti di promozione turistica. E per assicurare finanziamenti al maggior numero di progetti, l'Assemblea ha approvato uno specifico ordine del giorno. Soddisfatto Marco Mastacchi di Rete Civica. È stato recepito e votato all'unanimità un mio emendamento che prevede di inserire con una corsia preferenziale i premi Nobel della nostra regione. Siamo al termine della nostra puntata. Per rimanere aggiornati sulle attività dell'Assemblea legislativa, seguiteci sui profili social e sui siti assemblea.mr.it e cronacabianca.eu. Assemblea On Air. Il settimanale dell'Emilia-Romagna, programma cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. In redazione Margherita Giacchi, Andrea Perini e Isabella Scandaletti. Contributi audio di Davide Landi, Agenzia Dire, direttore Mauro Sarti.